aprendo da un articolo di Eva Cantarella sul Corriere della Sera di martedì scorso, che a maggio potremmo ammirare in tutte le sale e multisale superstiti un colossal cinematografico di rara potenza e impegno produttivo, liberamente ispirato al racconto omerico della saga troiana, in inglese si intitola semplicemente Troy, e chissà come se la caveranno i distributori italiani, è interpretato niente meno che da Brad Pitt nella parte di Achille, figlio di Peleo. Non me ne aspetto niente di buono, ma il fatto in sé mi sembra abbastanza inevitabile. Il cinema, per quanti capolavori abbia creato a partire da Storie private, si lascia incantare periodicamente dai grandi miti, dalle grandi storie della cultura occidentale, e se Mel Gibson ha avuto l'audacia di seguire le orme di Cecil B. DeMille trascrivendo sul grande schermo La vita di Cristo, non vedo perché qualche suo collega non debba cimentarsi a sua volta con l'Iliade. Il compito oltretutto è più facile, per mancanza di esemplari, insomma per mancanza di modelli, perché a non contare un peplum di culto come Viva d'Achille di Marino Girolami, che è del 62, in cui i panni dell'eroe omerico erano cuciti sulle robuste membra di Gordon Mitchell, l'unico altro tentativo di un certo spessore ricordato dalle storie del cinema è Elena di Troia di Robert Wise del 55. Nonostante la presenza di Rossana Podestà e il fatto di segnare la prima comparsa su celluloide di Brigitte Bardot, non è esattamente un capolavoro. Non è questo comunque il problema, e non intendo rubare alla Camera le sue competenze di cinefilo. Neanche la Cantarella d'altronde si occupa di storia o dottrina del cinema. Lei ha scritto quell'articolo. Ha scritto quell'articolo perché l'idea di Brad Pitt nella parte di Achille proprio non le va giù. Non vede somiglianza tra i due personaggi, insomma. I capelli biondi, lo ammette, ci sono, ma qui si ferma qualsiasi parallelismo tra i due. Achille, per la nota studiosa, non era né bello né simpatico. E Brad Pitt evidentemente sì. Achille si era bruciate le labbra quando la madre aveva cercato di renderlo immortale attraverso il fuoco, e come diamine si fa a definire bello chi non è in grado di sorridere? Lei, la Cantarella, quando a scuola leggeva l'Iliade, stava sempre con Ettore, era dalla parte di Ettore, tifava per Ettore, come d'altronde la maggior parte dei suoi compagni, pochissimi dei quali stavano con il figlio di Peleo. Il quale d'altronde di fatto aveva un pessimo carattere. A causa della sua proverbiale ira funesta, leggo, i greci muoiono migliaia sotto le mura di Troia, e tutto per una reazione a un'offesa dell'onore, una forma di odio coltivato in sprezzante isolamento con totale insensibilità alle esigenze altrui. L'articolo ammette che nessuno degli eroi greci può definirsi altruista, che erano in pochi tra loro a conoscere la mitezza, ma insiste sul fatto che Achille supera tutti in arroganza, in presunzione, nel culto narcisistico della propria immagine, perché di quello che accade ai suoi commilitoni, di quel che accadrà alla Grecia, ben poco gli importa. E via, condannando. Io, naturalmente, non so quale scuola abbia frequentato l'autrice. Visto che siamo più o meno coetanei, immagino che non sarà stata molto diversa da quella che ho frequentato io. E io, che allora leggevo l'Iliade nella traduzione del Monti, che per un ragazzo delle medie è un tantino più difficile da decifrare dell'originale greco, ero troppo occupato a cercare di capire cosa diavolo volesse dire il sacerdote Crise quando ricordava ad Apollo d'averne un qua adornato con serti leggiadro del Ubro, o di averar sui fianchi opimi di tarui e giovenchi, per potermi permettere il lusso di schierarmi con questo o con quell'eroe. La Cantarella aveva evidentemente il vantaggio di essere figlia di un grande grecista, di cui peraltro in seguito avrei avuto anch'io l'onore di essere allievo, e aveva già capito da piccola quello che noi meno fortunati avremmo scoperto un decennio dopo sulle pagine dello Schnell e dello Jäger, che la rete, cioè la virtù dell'eroe greco antico, ha a che fare, come insegna l'etimologia, soltanto con l'aristewein, il primeggiare. Il che significa che Achille vuole solo ed esclusivamente essere il primo in qualsiasi campo, in qualsiasi cosa faccia, dall'ammazzare i nemici al piangere gli amici. Ed è il destino di chi come Agamennone i suoi gli nega la relativa investitura non potrebbe importargliene di meno. Che certo, dal nostro punto di vista non è un tratto simpatico, e mal si concilia con i nostri odierni ideali di collaborazione in vista di un risultato comune, ma il fatto che le virtù antagonistiche degli antichi non c'entrino una beata fava con quelle collaborative dei moderni, che in etica greca il problema della responsabilità si ponga in modi assolutamente diversi dai nostri, lo ha magistralmente illustrato Arthur Adkins in un grande saggio del 1959, ed è assurdo comune che la sua analisi resti insuperata e forse insuperabile. Ma certo, guardandosi intorno oggi si ha qualche motivo di dubbio. Le virtù collaborative saranno tipiche di noi moderni, ma in questi tempi forse postmoderni, non mi sembra godano di una particolare popolarità. Di villanzoni prepotenti che pensano soltanto a se stessi e al proprio primeggiare, considerando un patetico residuo del passato qualsiasi impegno di solidarietà, ne conosciamo per nostra disdetta fin troppi. Alcuni, ahimè, presiedono persino i nostri destini. A partire da colui che soprattutto primeggia in ricchezza e potere mediatico, che in quanto ad arroganza, presunzione e culto narcisistico della propria immagine non è secondo a nessuno, e che se a qualcuno può sembrare per avventura un perfetto cialtrone, del suo essere più cialtrone di tutti è riuscito a fare una strategia consapevole. Achille, poveretto, non poteva farsi fare lifting alle labbra bruciate, e comunque affrontava da bravo re dei Mirmidoni la sua parte di pericoli, nel senso che sapeva benissimo che subito dopo quello di Ettore sarebbe venuto il turno suo, ma ahimè non si poteva lasciar guidare nella norma del suo agire da considerazioni di utile personale. Perché il solidarismo certamente è fuori moda. Preoccuparsi troppo degli altri sembra e contrario alle leggi di un sano sviluppo economico. Ma furia di prendere a calci nei denti quelli che si considerano proprio inferiori, si finisce per ricadere in quella barbarie dalla quale ai tempi di Omero l'umanità stava appena emergendo, e che non a caso un altro pensatore di origine greca qualche decennio fa metteva in contrapposizione con il socialismo. Achille, tutto sommato, non faceva grandi danni. Si limitava a far fuori in reale tensione un certo numero di suoi pari grado, non meno trucidi di lui. Non gli sarebbe mai passata per l'anticamera del cervello l'idea di approfittare dei più deboli, di arricchirsi a loro spese e di pretendere per di più la loro ammirazione. Il continuo sgomitare di tutti quelli che oggi agiscono in base al presupposto più o meno inespresso che per giungere in vetta e restarci non c'è altra via che calpestare chiunque faccia d'ostacolo, produce, come sappiamo, molte più vittime.